Italia in controluce. Buona giornata da Anna Migliorati, le storie e i racconti dell'Italia in controluce. Toccherà al ministro Renato Brunetta, incaricato speciale del governo, scrivere una nuova legge per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la città l'emergenza è quella di avere finanziamenti che ancora servono per terminare il MOSE, la colossale barriera difesa dalle acque. I lavori sono a buon punto, ma ancora non ci sono tutti i soldi. E allora Silva Menetto è andata per noi a visitare il cantiere. La dedica sul cassero di uno dei cassoni di calcestruzzo che finiranno a 14 metri di profondità in fondo al mare dice ai lavoratori del MOSE con stima. Firmato Luca Zaia. Ai 30.000 lavoratori che fin dall'inizio hanno avuto modo di lavorare presso questi cantieri e ai 3.000 lavoratori che quotidianamente lavorano presso il MOSE. Il MOSE di fatto rappresenta il più grande datore di lavoro che oggi ci sia in Veneto. E continuerà ad esserlo dato che alla costruzione del sistema di dighe mobili progettato per salvare Venezia dalle acque alte seguiranno le fasi di gestione e manutenzione di quest'opera di macro ingegneria che non ha precedenti al mondo. Le ruspe lavorano incessantemente alle tre bocche di porto di Venezia e sotto il sole di giugno i cantieri del MOSE sembrano ancora più mastodontici. Imponenti i cassoni da 20.000 tonnellate l'uno in calcestruzzo che a metà 2011 dovranno essere pronti per essere posizionati alle tre imboccature portuali sul fondale marino. Ancorate ai cassoni da speciali cerniere ci saranno 78 paratoie mobili in acciaio che si alzeranno al bisogno grazie all'iniezione al loro interno di aria compressa al posto dell'acqua. Confrontarsi con quest'opera, su cui sono puntati gli occhi di tutta la comunità scientifica mondiale, completamente made in Italy, dallo studio alla progettazione alla realizzazione, è una sfida particolare, soprattutto per le maestranze. Beh, è un'esperienza che segna sicuramente la vita professionale di un tecnico, proprio per tutta l'innovazione a cui siamo costretti ricorrere per dare soluzione ai problemi che il progettista ci pone per risolvere appunto i problemi strutturali. Si continua a dire che qui si stanno scrivendo delle pagine proprio di letteratura ingegneristica. In un certo qual modo è vero, perché appunto l'ingegneria che si applica in questa opera è un'ingegneria a tutto tondo, ingegneria meccanica, marittima, civile, quindi completa. Vuol dire per un ingegnere avere la possibilità di vedere tantissimi campi dell'ingegneria applicati direttamente su un lavoro importantissimo. Una volta avviato il sistema MOSE, la manutenzione delle paratoie avverrà a rotazione in una sorta di car wash gigante impiantato alle tese dell'arsenale di Venezia. Enormi capannoni recuperati apposta dopo decenni di abbandono e destinati a diventare, come spiega il presidente del magistrato alle acque, l'ingegner Patrizio Cuccioletta, polo logistico tecnologico avanzato dell'idraulica e dell'elettromeccanica, strettamente connesso al MOSE e a tutti gli studi che abbiamo fatto fino adesso. È una volontà sia governativa sia a livello del mondo scientifico internazionale portare avanti il discorso che noi abbiamo iniziato. Noi apriamo quindi una porta. L'abbiamo già aperta, sono gli altri che devono entrare. Quanto al resto, la salvaguardia di Venezia deve passare anche attraverso tutta un'altra serie di interventi che vanno dall'escavo dei rii all'innalzamento del suolo al rifacimento delle rive. Operazioni che senza il rifinanziamento della legge speciale per Venezia sono ormai impossibili da cantierare. Italia in controluce. Mariangela Melato è una delle attrici di cinema e teatro che meglio ha rappresentato la trasformazione dell'Italia tra gli anni 60 e 70. L'ha incontrata Daniela Binello. Vorrebbe una bella lettera ai giornali. Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali. Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca. Dovreste andare là e buttare una bomba. Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi. Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora. Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi. Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi. E il cemento. E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore. L'aria pura. Inquinatori, sfruttatori. Sì, quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida. Da piccola voleva fare la ballerina e noi la ringraziamo per essere diventata l'attrice numero uno che conosciamo. Mariangela Melato, che abbiamo incontrato al Teatro Valle di Roma, dove ha portato Il dolore, un racconto di Marguerite Duras sull'Olocausto, è un artista che non si sottrae dal dire ciò che pensa sull'importanza della memoria. Per cominciare. Il male della nostra epoca, secondo me, in cui tutto è annebbiato dalla televisione, che è tutta rosa, che è tutta schifosa, che è tutta basata sulla mancanza di valori e soprattutto mancanza del ricordo,